Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma quando piove. Abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica di Roma un reato compiuto dal sindaco Marino. Quindi cade oggi questo mito dell'onestà, cade oggi il sono tuttavia una brava persona, perché il sindaco Marino ha mentito. Questa secondo me è clamorosa. Di andare a Cracovia e al ristorante Novotel Cracovia City West invitare a colazione una vittima dell'olocausto, un reduce dell'olocausto, pagare 8,63 euro di colazione, tenersi lo scontrino e dire sotto la mia responsabilità quei soldi devono essere restituiti, comunque, perché in realtà quella colazione era stata una colazione di lavoro. Poi c'è Marino che sembra non imbroccarne una. Adesso pare che abbia tirato fuori delle fatture, che abbia detto di essere a cena con il prete gli abbia detto di no. La quotidiana figura io non so cosa fa succedere perché Roma torni ad avere un sindaco se non geniale quantomeno normale. Vivo e so più buono. Non un terrazzo mai Roma capoccia. Pare che ieri Marino fosse sull'orlo delle dimissioni. Dimissioni, questa è la parola, titolo principale di Repubblica oggi. Tra l'altro si è impallata la PlayStation. Vi ricordate la foto di Renzi e Orfini che giocano alla PlayStation il giorno delle elezioni? Si è impallata la PlayStation. Renzi e Orfini, pare ai ferri corti, perché Orfini difese Marino all'epoca e Renzi l'ha chiamato. Renzi ha chiamato Orfini, gli ha detto: io te l'avevo detto che bisognava votare, adesso tu muori con lui. Tu muori con lui, Orfini. Tu muori con lui, politicamente parlando si intende, ma la politica è così, è spietata. E Marino che di solito fa lo gnorri, va avanti, insiste, stavolta era sull'orlo delle dimissioni, anche perché racconta il Messaggero, quando ieri ha detto convocate tutti i ristoratori, convocate tutti coloro con cui ho mangiato per dimostrare che erano loro, a un certo punto chiamano anche l'ambasciata del Vietnam. Chiamano la segreteria di Sua Eccellenza Nguyen Hoang Long, ambasciatore del Vietnam in Italia, che risulta aver cenato una volta con Marino. E la segreteria dell'ambasciata vietnamita dice: ma noi non c'eravamo a quella cena. Pure smentito dall'ambasciata. Ecco. Pure smentiti dall'ambasciata vietnamita a Roma. Non abbiamo mai cenato con il sindaco Marino. Ma che vada. Mamma mia, ragazzi. La situazione è grama. c'è il problema di due piatti di agnolotti e due controfiletti di fassona, per esempio mangiati a Torino con un prete, dice Marino. E quel prete dice: ma no, io stavo ad Alessandria quel giorno. Mo adesso c'è il ambasciatore vietnamita. Niente, l'ho detto da ieri, è da ieri che l'ho detto. Alla fine, per una gricia e un paio di amatriciane, cadrà il sindaco di Roma. Maccarone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccarone. Io me ne mangio. Finirà così. Marino dice: pago tutto oggi, restituirò 20.000 euro, restituirò anche la carta di credito che non terrò più. Gli chiedono anche di restituire la poltrona, ma quella no, per il momento no. E basta, sta così all'angoletto desta strada. Cari amici, sono le 6:34 minuti, c'è Lorenzo Nespoli con noi in redazione. Portate qualcosa da mangiare, un paio di cracker. Paghi tu. Roma nuda. Vabbè. Peter Vescapè in regia. Allora, cari ascoltatori, secondo voi cosa ha mangiato Marino? Ecco, lanciamo questo sondaggio al 349-238-6666. Che cosa andrà indigesto, rimarrà indigesto al sindaco di Roma? Una gricia, due amatriciane, due saltimbocca? Oppure controfiletti di fassona a Torino, due agnolotti? C'ho già fame, sono le 6:34. Vabbè, dai, devo convocare la capolista, no? La ex capolista, Silvia Brasca. Silvia, fai bene. Ciao. Sono le 8. Come va? 6:35. Va bene, sì, va bene. Puoi smentire Vasco Rossi? No, smentiamo Vasco Rossi, va bene così. Va bene. Silvia Brasca del TG della 7. Oggi è stata a Roma una giornata dura. Mamma oggi mia. Sarà ancora di più. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, voglio salutare anche il presidente del Codacons. Eccoci. Il nostro buongiorno. Carlo Rienzi. Buongiorno a tutti. Quanti esposti hai già fatto su sta storia degli scontrini? No, io penso che sia sbagliato. Ah. I cittadini sono disposti a tollerare 20.000 euro di cene a UFO, ma non la spazzatura per strada, le buche nelle strade, la paralisi del traffico, gli allagamenti appena piove. Oh. Questo è il punto. Adesso tutti si buttano sui scontrini. Il problema è un altro: il PD deve dire ha governato, sa governare, sa migliorare la città. Anche questo non si capisce. Guarda, è di un partito, sono incredibilmente d'accordo con Carlo Rienzi. Cioè, perché adesso finalmente di scontrini, ma che ce frega della no, sera vabbè, in più? adesso che ce frega proprio perché sono soldi dei cittadini. No, però effettivamente per dire, ma viene dopo, no? Ma certo, faccio un paragone che, per carità, lo dico tre volte perché sennò sono da querela. Non sto paragonando Al Capone a Marino. Ripeto, non sto paragonando Al Capone a Marino. Io non l'ho invitato. No, ma anche Al Capone non fu preso per i reati più gravi. Cioè, a volte si cade per... No? Ma è una questione politica, cioè è un partito... Cadrà per la gricia, cadrà per la matriciana, cadrà per la carbonara. Questo è il dato di fatto. Non va bene. E rimarranno le buche, cara Silvia, hai capito? Sì, però con carbonare grigie altro, e sono cadute giunte regionali, ricordiamoci, i due anni precedenti, il Friuli, il Piemonte, l'Emilia Romagna, ricordiamoci le elezioni del presidente della regione dell'Emilia Romagna, non sono secondari, quei pasticci lì sui soldi dei cittadini non si fanno, è una mentalità nostra, è una cattiva abitudine nostra a pasticciare. Tra l'altro non si fa, che Carlo Rienzi, che ce lo viene a dire tu che fai le pulci per 2 euro adesso? Non è quello. sviate l'attenzione degli ascoltatori. Ma non è che sviamo, no, le buche di buche ne abbiamo parlato. È che i farmacisti e i notai hanno vinto sul Parlamento e sui cittadini, perché i farmaci non si venderanno nelle parafarmacie e i notai non potranno lasciare la mano ad altri per fare i contratti di 100.000 euro. Ma adesso queste parleremo anche di quello. Questo che è molto più grave. Ma ho capito, vabbè. Ma va bene, ma allora che vuol dire? A Rienzi lo capiamo anche noi che è una questione politica di scontro, no, che c'è sotto, cioè gli stanno facendo, lo prenderanno per la matriciana per farlo cadere, questo sì, questo, però il dato di fatto è che ci deve essere sempre un effetto scatenante, no? E in questo caso c'è che l'ambasciata del Vietnam smentisce il sindaco su Du Tagliatelle, ma dai, ma insomma, come il Papa. Come il Papa. Ha smentito tutto. Esatto. Effettivamente, ragazzi, non, quando tu non hai dalla tua parte il Papa e sei a Roma e neanche l'ambasciatore Sua Eccellenza Nguyen Hoang Long, che fai? Appelli alla misericordia del Giubileo, tra un po' saranno delle dimissioni inevitabili e misericordiose. No, su questo poi ha ragione Rienzi, non è che se Marino se ne va domani le buche di Roma sono a posto, la spazzatura viene tolta dalle strade, anzi si andrà a votare, ci sarà tutta una... Si perderanno altri 6 mesi, tutto rimane come prima, passa il Giubileo, si ricomincia a parlare delle Olimpiadi. Intanto farmacisti e notai, vogliamo sapere i nomi dei parlamentari che alla Camera li hanno aiutati. Ma cos'è sta storia? Spiegacela bene, cos'è questa storia? Era previsto che i farmaci di fascia C potessero vendere anche fuori delle farmacie. Sì. Questo comportava un ribasso dei costi enorme, no? Ma la sicurezza. Ma che sicurezza? L'aspirina in tutto il mondo si vende nella fascia C fuori dei... L'hanno tolto. Era previsto che si potessero fare contratti di acquisto di immobili sotto i 100.000 euro senza i notai. L'hanno tolto. Ma mi spiegate chi è che fa togliere queste cose? Forse un notaio? Forse sono lobby potentissime. Lobby. Ma che male dice? Che male c'è nelle lobby? In America, visto che l'aspirina si compra dappertutto, le lobby sono il disegno di legge sulla concorrenza è andato a farsi benedire. Benedire. Mi sembra benedire. Il Papa poi dopo ci smentisce il Papa. Vabbè, Silvia, tu sapevi di questa cosa? Sì, è il decreto sulla concorrenza, sono tante. Legge importante. Lo so, non immagino, appunto, so che c'è questa lobby sulle farmacie che è inespugnabile. Ma che vuol dire ma inespugnabile? Ma le lobby, cioè, nel senso, sembra dirlo come se fosse una roba sporca. Cioè, le lobby in America ci sono regolate per legge, andrebbero forse regolate per legge. Uno fa il lobbista, cioè porta avanti gli interessi di una categoria, cioè, se lo fa in maniera aperta. Ma da noi c'è una legge che dice che i farmaci si possono vendere solo nella farmacia, anche se è un farmacista presente da un'altra parte. Questo è sbagliato, che c'entra? Ti puoi organizzare come vuoi come lobby, ma non puoi lasciare in piedi leggi degli anni 30 che danno privilegi a una categoria rispetto a tutti gli altri. Se io sono un giovane farmacista laureato e voglio vendere i farmaci con la mia esperienza, che ne so, nella bottega di mio nonno, che invece vende anche altre cose, non lo posso fare, devo andare in una farmacia e siccome quelli sono un numero chiuso e sono sempre loro, non ci posso andare perché non mi fanno entrare proprio, capito? Va bene, e allora siamo passati dalla paiata a paiata e poi un farmaco per digerire. Sono cose importanti da far sapere. No, certo, sono cose importanti. Allora, ma non abbiamo aperto il Parlamento, dobbiamo farlo assolutamente. Mi sa che non abbiamo aperto il Parlamento oggi, e quindi siamo adesso un po' in ritardo. Caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, ovviamente, col ministro Boschi. Che dici, Silvia? Che c'è? No, io non mi tocca il ministro Boschi. Non mi toccherei, ma chi la tocca? Non mi permetterei mai di toccare il ministro Boschi, perché? Lei... No, Rienzi, no, ci fermiamo. No, no, no, una stretta di mano posso... Certo, beh, insomma, una bella donna. Ma Renzi, Renzi, eccolo lì, eccolo lì, il sessismo, vedi da dove inizia. Vabbè, però Crozza, quando rappresenta Renzi con Boschi e l'altra ministra, non mi ricordo come si chiama, lo fa capire bene. Appena aprono bocca, Renzi dice, ah sì, sì, va bene, basta, zitta, cioè che vuol dire questo? Quando un comico bravo come Crozza interpreta un rapporto tra tre persone, presidente e ministre, in un certo modo qualcosa di vero ci sarà? Ma che vuol dire? Che ci sta dicendo? Che notizia ci sta dicendo? Ci sta lanciando una bomba atomica come se fosse Putin in Siria? Cosa, qualche missile? Cioè, cosa ci sta dicendo Renzi? No. Che forse fanno quello che dice lui. Non, non hanno una grande pensiero. Ma no, ma chi... della macchietta di Crozza è quello, no? Ma no, ma tu Silvia Vraschi hai mai pensato una cosa del genere? Io? No. No, ma va, ma dai su, no, Renzi, ma cosa va a pensare? Ma facciamo le gag con Franceschini allora, visto Franceschini, dai. Cioè, pensare che Renzi, cioè il quasi omonimo del nostro Carlo Renzi, sia un po' troppo autoritario e decida tutto lui. Ma no, ma dai, ma su, ma avvocato, ma... Ho detto che Crozza lo dice. Appunto, vabbè, ma è un comico. Capito, ma la satira c'è zicca. La satira. A proposito di satira, c'è un nuovo personaggio, Silvia Brasca. Tu hai mai incrociato il senatore D'Anna? Per me sta diventando il nuovo Scilipoti. Meglio che non lo incroci. Perché? Chi gli faresti? Non l'ho incrociato, è meglio che non lo incroci. E come mai? Ti è antipatico? No, è perché ha fatto i gesti in aula. Sì, cosa, quella è una delle pagine più schifose che ho visto. La mano è stata troppo leggera. La mano è stata troppo 5 leggera. 5 giorni di squalifica. Una cosa, ma sì, ma altro che 5 giorni. Esatto. Bisognerebbe trattarlo però... come tratterei Felipe Melo dell'Inter, non lo so, cioè squalifiche di 2 mesi ogni volta. Ecco, anche giù le mani da Felipe Melo. Sì. Ecco, però no, è una pagina e D'Anna ha fatto anche, si era anche allargato facendo i commenti, no? Adesso una pagina schifosa, dai. Adesso fa lo sciopero della fame, ha detto da ecco, ma gli fa bene che sono appeso, sì, ma sì, dai, è diventato ormai una delle, secondo me, una delle macchiette del Senato. D'Anna, sentito, ma se io ho torto mi dimetto da senatore, se Grasso ha torto è un fellone e si deve dimettere da presidente del Senato. Verdini si è arrabbiato, senatore, con lei, dica la verità, un po' sì, l'abbiamo. Verdini non vuole che si parli, però gli ho detto questo momento. Lui fa Cavour, io sono Garibaldi. Mamma mia, niente, basta, è in delirio di onnipotenza. Grasso fellone, lui è Cavour, io Garibaldi, ma basta, ma che macchietta è diventata ormai la dinamica parlamentare? Che macchiette sono diventate? Sentite ancora qui D'Anna, ancora, Inchioderemo la senatrice Lezzi e le senatrici D'Averno alle loro responsabilità e alle menzogne che hanno proferito. E purtroppo dovremmo inchiodare Grasso alla responsabilità di aver mentito ad un organo costituzionale. Mamma mia, ragazzi. Abbiamo un nuovo personaggio per Cruciani, non lo conoscevamo. Guarda, l'ha già invitato. Suggeriamo la Crozza, anche lui. Anche lui. Il senatore D'Anna. Però dopo il traffico io voglio portarvi a Ercolano, dove è successa questa cosa. Un gioielliere ha reagito a una rapina, ha ammazzato 2 persone, 2 rapinatori. Tra poco ne parliamo. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico. Io sono disposto a pagare il canone Rai nella bolletta, a patto che Alino Milan passi sui canali Rai, così ogni volta che pagherò la bolletta saprò a chi regalo i miei soldi, a un povero disgraziato. Socio Milan, c'è proprio un patac! E ricordatevi, chi volta il culo al Milan, volta il culo al quotidiano. Perciò l'Italia va a bombardare fuori casa, all'estero. Ma perché? Perché prima c'è l'Italia da bombardare, Montecitorio, quando sono tutte lì dentro, che non manca nessuno. Milan, è vero che ti alzi alle 5 per andare al lavoro, ma è anche vero che il tuo posto di lavoro è un ambiente caldo e una comoda poltrona. Immagina se invece fosse una fredda campagna e una zappa di 7 kg come quella di Angiolino. Ciao Milan! Ognuno ha un posto di lavoro. Sì, io ho il caldo, adesso metteremo un po' di freddo, apriremo le finestre, così tutto a posto, e potrò avere anch'io la mia zappa da 7 kg. La zappa, ecco. Ci vuole la zappa da 7 kg. A Zappalucampu, dalla mattina alla sera. A proposito, no, non ho chiesto a Renzi questa cosa del canone della RAI. Attenzione, il canone della RAI in bolletta. Che c'è? Non va bene? C'è il nostro Oscar. Protestano. Sì. Perché dovranno pagare il canone anche se non vendono la TV. Però lei sa che tu sai che è legata al possesso della TV il pagamento del canone, no? Ho capito che è legata al possesso della TV, però la TV adesso non è più come una volta che si vedeva solo la RAI. La TV serve per vedere anche gli altri canali. Sì, vabbè, ma questa è una cosa. Ma siamo alla radio, scusate, siamo alla radio. È la motivazione che è sbagliata. Scusate, loro. Vabbè, no, ma, no, allora, non va bene la, non va bene come nasce la tassa, questo l'ho capito. Ma il concetto di pagarla in bolletta, cosa c'è che non va? Ma non va perché è fatto per evitare l'evasione. Sì. Cioè, è come se i commercianti non pagano lo scontrino fiscale, allora facciamo così: facciamo pagare 100 euro a tutti i pensionati in più di tasse. Così lo scontrino, l'evasione è risolta. C'è l'Agenzia delle Entrate che deve andare a scovare gli evasori, come li scova in altri settori, lo deve fare anche in questo. Senza trovare questi mezzucci. Per esempio, ci sono circoli privati, partiti politici, ristoranti, bar, che non paga quasi nessuno, e il canone lì dovrebbe essere il doppio o il triplo. Sì. Eppure lo sanno tutti che c'hanno la televisione. Che ci vuole? Noi abbiamo fatto 2 anni fa una campagna su questi insieme. Ma guarda che in realtà è tutta una cosa strana. Cioè, ieri ci ha telefonato una signora che ha un bed and breakfast a due stanzine come bed and breakfast, e gli è arrivato da pagare il canone da 480 euro perché dice, perché siccome un bed and breakfast è considerato un'attività commerciale, per carità lo è, e quindi 480 euro. C'è tutta una bizzarria. Però i partiti non lo pagano, per esempio. I partiti non lo pagano. Cos'è questa storia? I partiti non lo pagano perché anche loro dovrebbero pagare il canone speciale. Silvia Vrasca, devi fare assolutamente un'inchiesta su questa facciamo cosa. L'inchiesta. No, ma segnalagli a Mentana. Ma cos'è sta storia? I partiti non pagano il canone della RAI. Ma è una vergogna. Evadono, ma non sono i partiti veramente. No, evadono o non lo pagano perché sono esentati? Evadono. Vabbè, evadono. Doppio scandalo i partiti evasori fiscali. Allora, però, no, vi volevo chiedere questo. C'è a Ercolano questa vicenda tragica di una rapina finita male per i rapinatori, uccisi dal gioielliere che aveva 5.000 euro, era uscito dalla banca. E poi cosa succede? Che si ribaltano i ruoli. A un certo punto la moglie di una dei rapinatori, uccisi, per carità, è stato ucciso, quindi il dramma c'è per lei, si presenta così. Scurnacchia, to diceva il gioielliere, hai ucciso 2 persone. La coscienza sporca, terrai tutta la vita. Faccio una traduzione simultanea. Silvia Brasca, qui la questione è certamente drammatica, da che parte la prendi. Anche quello ha ammazzato 2 persone, non se la vivrà bene. Però sono, mi sembra che è un film che abbiamo già visto. Cioè, ci meravigliamo che la moglie di un morto ammazzato abbia questa reazione in un posto, quando arrestano i boss, scendono per le strade, la gente cerca di, nei quartieri, e cerca di bloccare l'arresto. Sì, insomma, ma io non vorrei che si ribaltasse le ruoli. Cioè, voglio dire, è chiaro che quella lì, se quelli lì sono morti, ma voglio dire, ma se la sono andata un po' a cercare o no, se vanno a fare una rapina. Ma poi ci sarà il processo, vedremo se è un eccesso di legittima difesa, vanno le piste, le abbiamo viste tante volte. Come no? Guarda che tutti quelli, Ercolano a parte, anche in Lombardia, il gioielliere che aveva ammazzato, c'è sempre qualcuno che poi gli dà le minacce. Certo che i ruoli poi dopo sembrano invertirsi, è che mi sembra che il tessuto nelle strade della campagna, insomma il tessuto sociale di reazione al crimine nelle strade di alcuni quartieri della campagna sia di suo totalmente ormai ribaltato. Qua avvocato Rienzi, ho 30 secondi, qui come chi è la vittima di questo? Io non conosco il fatto, se è entrato con le armi questa persona, quello si è difeso e ed è giusto così. È che quando hanno modificato nel 2006 l'articolo sulla legittima difesa hanno un po' esagerato, nel senso che basta una violazione dove io entro in una casa altrui o in un giardino o in un cortile e c'è un rischio solo di aggressione ai beni, anche senza armi, l'altro se ha un'arma può sparare. No, ma è chiaro che è tutto un po' confuso, e certo ci sarà il processo per eccesso di legittima difesa a queste persone. Va bene, ci fermiamo qui, grazie a Silvia Brasca, Carlo Rienzi al momento del giornale radio, ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Allora, sono le 7:17 minuti, amici debosciati miei, è da un po' che non lo dicevo, debosciati d'Italia, come state? Che Milan, brutto debosciato! Grazie. Grazie caro ascoltatore, ti voglio bene e arrivino i miei saluti ovunque tu sia. E allora, come state? Oggi parliamo un po' di varie tematiche, come al solito, nel nostro Attenti a noi due, l'appuntamento con Oscar Giannino dalle 8:15, e avremo anche Monica Cirinnà, che è senatrice del Partito Democratico, che ha presentato un nuovo testo sulle unioni civili, fa molto discutere già anche a livello di maggioranza. Ma insomma, tante tematiche sui giornali che andiamo a sfogliare. Siamo qui, è giovedì 8 ottobre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre su Volkswagen, via al piano europeo dei maxi richiami, questo è il titolo di prima pagina, c'è anche il balzo del titolo che guadagna il 10% le borse. Mentre il Corriere della Sera insiste da giorni sulla questione internazionale, Iraq, il piano del governo, questo è il titolo di prima pagina, anche per la stampa, Putin scatena i missili sulla Siria. Il Fatto Quotidiano invece, Renzi, 4 tornado a Obama per un posto al sole in Libia. Abbiamo spiegato già ieri questa autorevolezza internazionale che l'Italia vuole conquistare, probabilmente anche appoggiando i bombardamenti. Mentre a Mosca cieca è il titolo del Manifesto, con esplosioni sulla Siria a Mosca cieca, perché Mosca ha bombardato con missili in Siria. La questione delle unioni civili, lo stato delle unioni è il titolo dell'Unità, e anche Avvenire in prima pagina, unioni gay, rischioso atto di forza in Senato. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre la vicenda Marino, e da qui voglio partire a leggere i giornali, Marino, ipotesi dimissioni, il PD lo scarica. Questo è il titolo di prima pagina di Repubblica. Il Messaggero, Marino, restituisco i soldi. Mentre il giornale, un Marino al giorno toglie Renzi di torno. Ebbene sì, sapete che non c'è giorno senza la pena per Ignazio Marino sui giornali. La vicenda dei pagamenti di alcuni conti di ristorante, su cui indaga la procura, l'ipotesi è quella di aprire un reato di peculato su cui indagare, e questo ha fatto passare una giornata tesissima al sindaco di Roma, che a fine giornata di ieri ha detto va bene, restituisco 20.000 euro dei 150.000 accertati spesi con la sua carta di credito, restituisco 20.000 euro, pago di tasca mia tutte le spese di rappresentanza e da domani, cioè da oggi, non avrò più la carta di credito, riconsegno la carta di credito. Questo è quello che ha detto. C'è da dire che però politicamente la situazione fatica a reggere. Tra l'altro il Messaggero racconta che ieri c'è stata un'altra smentita, addirittura la smentita è stata dell'ambasciata vietnamita a Roma. Perché? Come raccontano Michela Allegri e Sara Menafra, pagina 2 del Messaggero, ieri Marino ha dato ordine di convocare i titolari dei ristoranti che hanno ospitato il sindaco per cene e pranzi istituzionali. Questa è una delle prime mosse che è stata messa dal pool dei reati contro la pubblica amministrazione della Procura di Roma per capire se Ignazio Marino ha pagato tutto regolarmente. E Marino cerca in qualche modo degli appoggi. Ieri però c'è stata la smentita anche di Sua Eccellenza Nguyen Hoang Long, cioè ambasciatore vietnamita a Roma, il quale, contattato tramite segreteria, ha detto: io non ho mai cenato al girarrosto toscano con un conto da 260 euro il 26 dicembre 2013 con rappresentanti del Comune di Roma. Cioè ci sono le smentite, come ieri c'è stata la smentita di un sacerdote che ha detto: io ho mangiato due piatti di agnolotti e due tagliate di fassona con Marino a Torino. No, quel giorno ero ad Alessandria, non so con chi abbia cenato. Insomma, la situazione politica sembra sempre più insostenibile. Renzi, così non può durare. Pagina 3 del Messaggero è pieno di retroscena di un Renzi infuriato. Secondo la stampa avrebbe già fatto i nomi di Orfini e Giachetti per il sostituto di Marino. Anche il Corriere della Sera: il PD è tentato dalle urne, il timore è quello di consegnare però il comune al Movimento 5 Stelle. Il retroscena di Repubblica è forse il più duro, perché racconta che non solo c'è uno scontro tra Renzi e lo stesso Marino, ma c'è anche uno scontro tra Renzi e Orfini, commissario del PD a Roma. Eccolo qui: il PD scarica Marino, il sindaco dice restituirò tutto ma pensa alle dimissioni, e Renzi dice decisione rapida. Pagina 2 del quotidiano Repubblica: sotto shock, tentato dalle dimissioni, braccato dal fantasma che gli è rimasto appiccicato addosso nel 2002 quando fu costretto a dimettersi dall'università di Pittsburgh e dall'ISMET di Palermo per una brutta storia di note spese anomale e rimborsi doppi. Eccolo l'incubo che a distanza di 13 anni si ripete e che stavolta col paracadute del PD chiuso per sempre rischia di travolgere quel che resta dell'uomo e della sua carriera. Ce l'ha chiaro il sindaco Ignazio Marino quando ieri di buon mattino vede Matteo Orfini per tentare di spiegare l'ennesima cena per motivi istituzionali consumata con la moglie a spese del comune. Non sa ancora che di lì a poco pure l'ambasciata del Vietnam smentirà un convivio serale il 6 settembre 2013. E allora racconta Repubblica che ci sarebbe stata questa telefonata piuttosto burrascosa tra Matteo Renzi e Orfini. E Renzi avrebbe usato queste parole con Orfini: io te l'avevo detto che si doveva andare a votare, tu l'hai voluto salvare e adesso te lo tieni e muori con lui. Ovviamente, politicamente parlando, Renzi si sarebbe rivolto così a Orfini. La cosa è un pochino strana perché Repubblica scrive questo, mentre la stampa dice che proprio Orfini sarebbe uno dei nomi ai quali pensa Renzi per sostituire il sindaco Marino, che però va fatto decadere. Ma certo l'appoggio del PD non c'è più. È paradossale invece che Alessandro Sallusti, direttore del giornale, tifi per Marino, ma tifa per Marino in maniera molto sarcastica, perché in questo modo scrive nell'editoriale di prima pagina Sallusti: purtroppo il Marino sindaco non durerà, purtroppo non durerà. Ci auguriamo invece che i magistrati vadano molto lentamente, non abbiamo fretta, perché ogni ora in più che Marino resta sindaco è sì un'affronta ai romani, ma un regalo del cielo. Perché l'uomo è incorreggibile, irrefrenabile, chissà quante bugie, quante bevute a spese nostre, chissà quali altre meraviglie a noi oggi sconosciute verranno a galla giorno dopo giorno, chissà quali nuovi gaff faranno sobbalzare sulla sedia Renzi e morire dal ridere noi. vedere il sindaco PD trascinare nel fango e nel ridicolo il suo segretario premier, vederlo bruciare ogni giorno migliaia di voti romani, è spettacolo impagabile. Forza Marino, non mollare, sei tutti noi. Quindi questo è il sostegno molto ironico e caustico di Alessandro Sallusti dal centrodestra al sindaco di Roma Marino. Comunque si parla di dimissioni, però per ora smentite. Oh, invece una vicenda che mi ha molto colpito sui giornali è questa. È ricomparso Duilio Poggiolini. Ve lo ricordate? Duilio Poggiolini, quello che quando era al Ministero della Sanità, ex direttore generale del Servizio Farmaceutico Nazionale, uno dei protagonisti di Tangentopoli, allora gli trovarono un patrimonio di 300 miliardi di lire e aveva frodato molto agli italiani, allo Stato. Ebbene, Duilio Poggiolini è stato trovato a 86 anni nello sgombero di una casa di riposo abusiva. C'è la foto anche sul Corriere della Sera, ovviamente irriconoscibile, molto anziano, 86 anni. Una casa di riposo abusiva scovata a Roma, dove i parenti dei ricoverati pagavano dai 600 ai 1200 euro al mese, ovviamente in nero perché era tutto abusivo, è stata trovata dai carabinieri, è stata sgomberata e c'era Duilio Poggiolini lì con le sue stampelle, molto affaticato. Quando i poliziotti si sono presentati per sequestrare la struttura, Poggiolini era a letto sotto un porticato chiuso con gli infissi, trasformato in stalza di degenza, racconta il Corriere questa parabola davvero incredibile. Lo racconta con Rinaldo Frignani e Emanuela Pelati a pagina 19. E come mi ha colpito? Che cosa? Mi ha colpito questo. Prima pagina di Libero è un racconto di Mario Giordano, è una denuncia degli invalidi d'oro. Ci sono gli invalidi d'oro con pensione da 9.000 euro al mese. Tenetevi forte, cari italiani. Può esistere una pensione di invalidità da 9.000 euro al mese? Chiede Mario Giordano. Ebbene sì, per l'esattezza 9.203 euro al mese. E in un paesino del nord una signora che incassa ogni mese questa cifra, 9.203 euro per pensione di invalidità. E non è l'unica, perché anche se nessuno ne parla, sono oltre 600 in Italia i disabili che nella sfortuna della loro disabilità possono perlomeno contare su un'entrata mensile da super paperoni. Va dai 7.698 ai 13.980 euro al mese, non poco, soprattutto se si considera che la pensione in Italia media di invalidità non supera gli 825 euro al mese. Sia chiaro, non possiamo parlare di fortunati né di privilegiati nel momento in cui sono gravi disabili. Ma i vitalizi d'oro dell'invalidità sono una piccola e piuttosto sconosciuta oasi di ricchezza. Racconta sempre Giordano, da qualche tempo, per esempio, seguo la storia di Gian Michele Gangale di Agliana, Pistoia, rimasto completamente paralizzato dopo un tentativo di rapina da parte di una banda di albanesi. L'ha massacrato a coltellate, lui ora è su una sedia a rotelle, il corpo interamente bloccato, muove solo la testa, ha bisogno di assistenza 24 ore su 24, ebbene, ha una pensione di 800 euro al mese, con la quale fa fatica a vivere. Gli invalidi d'oro con 9.000 euro al mese è il titolo di questo articolo su Libero, che certo non è molto piacevole, ma non è l'articolo che ci fa tenere le mani sul volante. Anzi, se siete in treno, a maggior ragione, cari pendolari, posizione d'atterraggio di emergenza d'aereo. Testa in avanti, piegata sulle ginocchia. Forza, fatelo. Magari ci state ascoltando in podcast e quello davanti vi prenderà per matto. Non importa, fatelo comunque. Con le vostre cuffiette l'avete fatto? Eccolo qui, perché la notizia, sempre su Libero, riguarda i treni. Paolo Caboni. I nuovi treni da 50 milioni di euro sono troppo nuovi. Succede in Sardegna, dove arrivano, costati 50 milioni di euro, nuovi treni super veloci o iper veloci, o un po' più veloci dei locali. ma non possono essere utilizzati perché ci si accorge una volta che sono arrivati dalla Spagna, ben lautamente pagati, che la rete ferroviaria non è adeguata a far viaggiare questi treni e quindi bisognerà spendere, secondo stime, altri 49 milioni di euro per far funzionare i treni già costati 50 milioni di euro. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, da poco, abbia legge giunta da una maniera che nisce una milizia prima in domuno. Dialetto foggiano. Eccolo qui che è tornato il nostro grandissimo dialetto foggiano. Adesso Peter Bescapè vi manderà una traduzione, la mettiamo sul sito Facebook. Letterale. No, va bene, sei capito. Che leggo i giornali. Allora, l'attualità internazionale alle 7.35 minuti continua sul Corriere della Sera con Maria Teresa Meli e Fiorenza Sarzanini. Il Corriere della Sera, sapete, è il quotidiano che due giorni fa ha svelato l'Italia bombarderà in Iraq. Da lì grande polemica, si è saputo che ce l'ha chiesto Obama in persona, lo ha chiesto a Renzi. Si è saputo anche che probabilmente l'Italia lo fa per acquisire forza diplomatica e gestire poi militarmente un eventuale coordinamento di missioni in Libia. Insomma, sono anche giochi diplomatici importanti questi. Allora, cosa succede? L'irritazione di Renzi perché la notizia è fuggita da qualcuno ed è finita sui giornali. I prossimi passi di Renzi per allargare il consenso, ma evitando il voto in aula. Questo è interessante, il passaggio raccontato dal Corriere della Sera, cioè c'è una risoluzione già approvata nel 2014 al Senato che concede il via libera alla missione in Iraq e consente già interventi di attacco. Ecco dunque che la strategia di Renzi sarebbe quella di allargare il consenso, ma evitare il voto in aula, cioè cercare il consenso e arrivare entro un mese al via libera per l'attacco dei nostri quattro Tornado attualmente presenti in Kuwait a bombardare in Iraq. Ovviamente bombardare che cosa? Bombardare le postazioni dello Stato Islamico. Matteo Renzi, scrive il Corriere, sa bene che un rifiuto dell'Italia peserebbe non poco nelle relazioni internazionali. D'altra parte è consapevole dell'effetto che un impegno in azione di guerra può avere sull'opinione pubblica, visto che inevitabilmente aumenterebbe il rischio di ritorsioni dei fondamentalisti. E allora la parola chiave è coinvolgimento, cercare di allargare il consenso su questa vicenda e poi il via libera senza voti dell'aula, perché c'è già la mozione approvata l'anno scorso. Per la verità la guerra in Siria c'è già. Putin ieri ha compiuto 63 anni e ha fatto due cose per la festa. Ha fatto una partita hockey e girano le foto e ha lanciato qualche missile. Ha lanciato qualche missile in Siria. L'escalation militare di Putin, secondo gli americani, ha già schierato addirittura un battaglione sul terreno e sono arrivati dei missili dal Caspio, sono piovuti sulla Siria, dice la Russia. I target raggiunti erano postazioni dell'ISIS, ma anche postazioni di ribelli anti-Assad. Certo, controllare che cosa succeda sul campo in questi casi è davvero impossibile. Il dato di fatto è che l'escalation militare c'è e il rischio di trovarsi, come dice il nostro Alberto Negri, di fronte già a una guerra bella e buona ormai è più che concreto. Quindi questo è il fronte siriano, non il fronte iracheno dove dovrebbero bombardare anche i caccia italiani, ma il fronte siriano è già davvero in guerra. Ma guerra nel senso non solo interna, quella c'è da anni, ma guerra a questo punto anche a cui partecipano nazioni altre come la Russia. Invece, se lasciamo le questioni internazionali e veniamo alle questioni italiane, beh certo rimane lo scontro verbale, ma non solo verbale, anche lo scontro per mancanza di dialogo interrotto tra Confindustria e sindacati sulla questione del rinnovo dei contratti. Un elemento che oggi è ben sviluppato dai giornali e vede due dei protagonisti, vale a dire il presidente di Confindustria Squinzi e la leader della CGIL Susanna Camusso, che in qualche modo si fronteggiano sui giornali con due interviste. E Squinzi, presidente di Confindustria, rilascia un'intervista al Messaggero, e Osvaldo De Paolini, che lo intervista a pagina 5, dice chi vivrà vedrà. Certo, bisognava mettere un punto, dare una svolta. Sono mesi che parliamo senza approdare a nulla. CGIL, CISL e UIL si dicono d'accordo sul fatto che bisogna cambiare. Poi quando si tratta di sedere al tavolo tecnico se ne presenta uno su tre. E così non si va da nessuna parte. Dice Squinzi: anche a me era parso che l'incontro riservato con la Camusso durante la visita all'Expo fosse un passo in avanti. Dopo... tant'è che dopo esserci confrontati per più di un'ora abbiamo concordato un appuntamento per l'indomani insieme alle altre due sigle. Invece all'appuntamento si è presentata solo la CISL e la Camusso nemmeno ha ritenuto di avvisarci. Che cosa chiede in sostanza Confindustria, chiede il Messaggero? Beh, sul fronte dell'economia abbiamo alle spalle 7 anni tremendi. La congiuntura attuale non lascia intravedere una ripresa facile. È perciò illogico che si proceda su sentieri vecchi. Le nuove relazioni industriali si dovranno ispirare a un concetto irrinunciabile, la produttività, ingrediente fondamentale per determinare il successo di un'impresa sul mercato. Poi, dice più avanti nell'intervista Squinzi, non bisogna assolutamente rinunciare ad applicare le novità del Jobs Act. Per chi non l'avesse capito, gli imprenditori vogliono i contratti a tempo indeterminato. Le acrobazie contrattuali cui siamo costretti in passato hanno fatto male alle aziende e ai lavoratori, soprattutto i giovani. E infine, se c'è volontà di raggiungere un accordo, lo vedremo dai fatti. Così Giorgio Squinzi sul Messaggero. Risponde in qualche modo su Repubblica, intervistata da Roberto Mania, Susanna Camusso, leader della CGIL. Perché lei ha definito stranianti le parole del presidente di Confindustria Squinzi? Perché quando si è accorto che le sue idee sul salario non erano condivise, dice Camusso, ha fatto come quei bambini che si arrabbiano e portano via il pallone. Non ci si rende conto che i sindacati rappresentano interessi diversi da quelli degli imprenditori. I contratti si costruiscono sulla base di mediazioni possibili, ma siamo su sponde opposte. Mi stupirei se non fosse così, se non ci fosse il confronto e anche il conflitto. E ancora Susanna Camusso attacca dicendo: guardi, a volte rimpiango presidenti di Confindustria come Angelo Costa e Gianni Agnelli che pur nella durezza delle loro posizioni hanno sempre riconosciuto il valore del lavoro e della tutela del salario. Poi il messaggio al governo da parte di Susanna Camusso, la domanda: lei pensa che un intervento dell'esecutivo sia contro il sindacato? Le relazioni industriali, dice Camusso, sono relazioni tra le parti, lo riconosce lo stesso articolo 39 della Costituzione. Allora quale urgenza c'è di intervenire? In realtà c'è il pericolo che ancora una volta l'intervento del governo nasconda una sottovalutazione del valore del lavoro e della sua rappresentanza. E poi vabbè, ovviamente sono stralci delle interviste che potete leggere, una sul Messaggero a Giorgio Squinzi e una su Repubblica a Susanna Camusso, per farsi un'idea in questa complicata vicenda che riguarda milioni di lavoratori il cui contratto non viene rinnovato e deve essere rinnovato entro dicembre al momento c'è un blocco delle trattative. Di questo si occupa anche il Sole 24 Ore. Giusto Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, giusto, caro Alessandro, infatti ci sono due pagine proprio dedicate a questo tema con anche le posizioni differenziate peraltro dei vari sindacati, delle confederazioni sindacali proprio su questo tema del rinnovo dei contratti, ma molto altro anche oggi sul Sole 24 Ore, soprattutto con il Sole 24 Ore, caro Alessandro. Sì. Perché oggi insieme al Sole 24 Ore abbiamo codesto libretto. Dovrei dire instant book, però forse codesto libretto mi suonava più adeguato, sulla riforma del lavoro, che però si chiama Jobs Act. Vedi come a volte la lingua è ingiusta. No, scherzi a parte, un libretto che appunto un instant book che spiega le novità entrate in vigore o che entreranno in vigore con il completamento della riforma del lavoro, del Jobs Act, tutto con il Sole 24 Ore appunto in un instant book. Codesto libretto, non modesto, codesto. Codesto e non modesto. Volevo anche dirti di segnare sul calendario già fin d'ora il 22 di ottobre. Mi pare che sia un giovedì, adesso potrei sbagliarmi, non ho controllato sul calendario, però perché te lo devi segnare? Perché è il giorno in cui entrano in vigore i 5 decreti che mancavano per la delega fiscale. Ad esempio la riforma dei reati tributari. Perché succede tutto questo? Perché sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Allora, cambiano i reati tributari dal 22 di ottobre, spieghiamo tutto nelle pagine di Dillo Tu. Norme e tributi. Ovviamente, che tu hai letto religiosamente. Molto bene, e così continuerai a fare anche nei giorni a venire. Ovvio, ovvio. E poi ti voglio anche dire che c'è stata la prima pronuncia della Cassazione sull'abuso del diritto. So che tu su questo tema sei deboluccio, quindi non voglio insistere, però se oggi leggi norme e tributi, vedi come la Cassazione ha delimitato appunto la fattispecie dell'abuso del diritto. Oggi sono questi vocaboli un pochino ricercati, non vorrei poi disturbare. Oh, guarda che si avvicina, l'ho letto nelle pagine di Finanza oggi su Sole 24 Ore, la quotazione per le Poste. Puoi andare a controllare appunto con i due eurini. Mi presento con due. Presentati con i due eurini. Non credo che abbiano dei motivi, a meno che non sia proprio una questione personale con te, che non vogliono i tuoi due eurini. Ma non credo. E poi naturalmente la legge di stabilità. Con questo prestito pensionistico che potrebbe allargarsi addirittura ai disoccupati di lunga durata, che perdendo, non avendo più ammortizzatori sociali, sussidi eccetera, potrebbero magari accedere al prestito pensionistico anticipato, una sorta di piccolo anticipo della pensione. Vedremo, il 15 ottobre incombe su di noi. Nel frattempo, caro Alessandro, traffico! Oh mia bella Lino Milan, che te brille de lunta. Alessandro Milan, il pauscia dell'informazione. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lunta. Scusate, ma insomma, la nostra Milano piscinina, è un gran Milan. Tite domine Milan. E allora, cari ascoltatori, le notizie politiche del giorno sono sostanzialmente due, del giorno di ieri ovviamente, e che oggi si trovano sui giornali. Il Senato si continua a votare. La notizia politica più importante è il fatto che ieri c'è stato un salvataggio, se volete, un soccorso di Forza Italia, con quindi una spaccatura nell'opposizione, perché Forza Italia salva il governo, come titola Repubblica, cioè su un emendamento il PD trova un accordo e Forza Italia finisce sul banco degli imputati perché è stata accusata di avere tacitamente resuscitato questa sorta di patto del Nazareno. Lo ricordate, l'accordo Berlusconi-Verdini e Berlusconi-Renzi, grazie a Verdini, e di fare così stampella al governo. I leghisti si arrabbiano, escono dall'aula. L'articolo più interessante, al di là di questi movimenti o sommovimenti parlamentari, è Francesco Verderami, lo firma sul Corriere della Sera, un retroscena per capire il perché, e si chiede Verderami, perché Berlusconi con Forza Italia ha soccorso ieri Renzi, perché bisogna leggere tutto ciò nella speranza di Berlusconi, quando ha detto qualche giorno fa sono abbastanza fiducioso che verrà cambiata la legge elettorale, cioè l'Italicum. Ecco dunque che la legge elettorale, quel segnale di Berlusconi a Renzi, come dire, soccorro con i miei senatori il PD nel voto della riforma al Senato, però tu mi prometti che cambi la legge elettorale. L'altra questione politica è la presentazione di un nuovo testo sulle unioni civili. E qui il problema del PD è più all'interno della maggioranza, cioè col nuovo centrodestra di Alfano, con Sacconi che dice è questo un grimaldello per far passare l'adozione dei bambini ai gay, e dunque non ci stiamo. Anche Lupi, ex ministro del nuovo centrodestra, dice è una forzatura assoluta. Quindi qui il PD, che ha presentato un nuovo testo sempre con la senatrice Cirinnà, che sarà nostra ospite alle 8.40, viene accusata di fare un nuovo testo grimaldello per accelerare la vicenda. Cercheremo di capire qualcosa di più alle 8.40 del perché questo nuovo testo sulle unioni civili. Queste sono appunto le due notizie politiche. Dopodiché, se si va sulla cronaca, bisogna andare purtroppo sulla cronaca nera. In particolare c'è stato un nuovo femminicidio. Una storia terribile, riguarda una ragazza di 20 anni, Giordana Di Stefano, che è stata uccisa dal suo ex fidanzato Luca Priolo, 24 anni. Una relazione finita. avevano anche un bambino che questa ragazza Giordana aveva avuto molto molto giovane, a 16 anni, aveva già 4 anni, una bambina per la verità. E poi c'erano state le denunce di stalking da parte della donna nei confronti dell'uomo, e proprio ieri doveva esserci la prima udienza. E allora il Corriere della Sera con Felice Cavallaro racconta questa storia che viene da Nicolosi in provincia di Catania. Madre di 20 anni uccisa dall'ex, l'aveva denunciato per stalking. È riuscito a convincerla a uscire di casa all'una di notte, l'ha uccisa a coltellate un'ora dopo, a 4 chilometri dalle ultime villette di Nicolosi. Chiamata al telefono, ha accettato la ragazza di incontrarlo in compagnia di un suo cugino. Una conversazione pacata, così sembrava, tanto che dopo 45 minuti alla richiesta di essere lasciati soli, Giordana non si è opposta, il cugino è andato via. E il resto del racconto sta nella confessione su una passeggiata conclusa su quella strada buia anche per discutere dell'affidamento della bimba alla madre. Lui che chiede, così almeno avrebbe detto agli inquirenti che l'hanno poi rintracciato ieri a Milano arrestato, per un posto di guardia giurata devi ritirare la denuncia di stalking, altrimenti non mi danno il porto d'armi. La discussione evidentemente degenera e qui le coltellate e l'uccisione. È l'ennesima vicenda, poi si dice denunciate, denunciate, è giusto denunciare, denunciate, l'aveva denunciato, c'era ieri anche la prima udienza del processo. Il dato di fatto è che uno denuncia, ma poi come invece denuncia a sua volta il procuratore Pietro Forno, intervistato da Repubblica, le vittime alla vigilia delle udienze vanno protette. Dice il magistrato di Milano Pietro Forno, così sembra avvenuto lo stalking, è un reato abituale, quasi metodico. Questa volta il reato è avvenuto nel 2013 e dal punto di vista investigativo esistono parametri che possono individuare un soggetto pericoloso. A Milano l'esperienza della procura c'è, mi porta a dire che nel 90% delle denunce lo stalker si può fermare con un'opera di persuasione, ma certo in alcuni casi forse bisognerebbe proteggere chi denuncia, soprattutto in vista del processo. La notizia terribile c'è ovunque, denunciò stalker, lui la uccide a 20 anni, pagina 17 del Messaggero. Mi ha molto colpito invece di cronaca questa vicenda raccontata da Libero da Giuseppe Spatola a pagina 18. Succede in un comune in provincia di Brescia, Bagnolo Mella, 12.000 abitanti. Non ci sono soldi e allora il comune decide di far potare gli alberi ai volontari. Ma cosa succede? Per risparmiare, così abbiamo risparmiato negli anni 500.000 euro. Succede che però i florovivaisti li denunciano e portano tutto alla Corte dei Conti e a decidere sarà un giudice. È chiaro, il titolo è l'Italia dei tagli, certo, dei tagli ai conti dei comuni, di tagli di soldi, di tagli di alberi, in questo caso di tagli di alberi che finiscono davanti al giudice. È un paradosso tra la burocrazia, l'assurdità, i conti da mantenere e i cordoni della borsa stretti. L'Italia dei tagli lo trovate su Libero. Ma eccoci qui alla carta costa, è proprio sotto quest'articolo, l'articolo più inutile scovato sui giornali, su Libero. Le signore del vino si trovano in Monte Napo, che per chi non lo sapesse è via Monte Napoleone a Milano, nel cuore di Milano, tra aste di bottiglia e assaggi in boutique su Libero. Attenzione, chi saranno mai queste signore che si trovano in Monte Napo? Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Ladies and Gentlemen! And now, Alessandro Milan and Oscar Giannino! Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata! Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui alle 8:18 minuti in punto. E la domanda è, caro Alessandro, noi ci stiamo, ma il sindaco Marino c'è ancora e ci sarà ancora? No, c'è no, ancora. Prima c'è quando ancora. Ho sentito licenziato, era scattato automatico. A Marino non si sa, ma tra l'altro... No, la Repubblica titola Marino, cioè il PD lo scarica, che titolo è? Il PD lo scarica. Il tema... Licenziato! No, per ora no. Insomma, per ora no. Repubblica dice così. Però io prima, caro Oscar Giannino, detto che do subito il numero per i nostri ascoltatori 800 24 00 24, ho fatto non un paragone, per carità, ma un esempio forte, un esempio. Tu ti ricordi Al Capone che finì un esempio hai fatto di quelli di una certa finì in carcere per questioni fiscali, mica per aver fatto ammazzare. Ecco, qui cioè a Marino non è che adesso gli imputano le buche, la spazzatura, non saper governare, ma una paiata a due scotta dito, tre salti in bocca alla romana mangiati con la moglie a spese nostre, questo è, e rischia di cadere per quello. Però lui è proprio, c'ha una propensione a iterare l'autogol, come deve, è la panda, e in America dice che le naturalmente multe, va vero, a raccogliere i soldi pallino. E mai poi questi soldi si vedono, dice che non ci sono spese del Campidoglio, le spese del Campidoglio ci sono, e dice che è andato con la cena con l'ambasciatore del Vietnam e non niente. No, non è vero, no, col Papa non ha detto che è andato con dal Papa, Sant'Egidio, però... E niente, è incredibile. Sì, no? È arrivata anche la smentita ieri di Sua Eccellenza l'ambasciatore del Vietnam in Italia, a dire non è vero che persino io ho cenato a Torino con è andato, insomma, un noto, un buon ristorante eccetera, dice che a Torino ha visto XY ha detto, lo conosci questo ristorante di Torino? Lo conoscono tutti a Torino, quindi che ristorante è? Facciamo pubblicità, pubblicità, però voglio dire, è un ristorante che da 20 anni è uno dei punti di riferimento. Però dovunque ci sia un pezzo di carta, non capisco perché deve dire così. Ecco, sì, la questione è questa: un sindaco può per una cena da 70 euro cadere, o comunque arrivare a dire la pezza d'appoggio? Cenavo con il sacerdote a Torino, e il sacerdote dice: ma io veramente stavo ad Alessandria. Quella... Però il punto è che quando sei costretto a dire da sindaco, eletto sulla moralizzazione, restituisco 20.000 euro e sì, do indietro la carta di credito, come vedi qui non è più una cena, cioè è una linea generale di credibilità che non c'è più, non c'è più. E a cui si sommano tutti i disastri, l'attacco, le cose, ecco. Ma queste, cioè, saranno elementi importanti per decidere se un sindaco sa governare una città, no? Perché come sai il PD, per non perdere le elezioni, lo tiene a bagnomaria. È vero. Ecco, questo poi è il punto vero, perché bisognava votare invece di inventarsi il commissariamento, non commissariamento, che non c'è nel nostro ordinamento, che si sono inventati apposta per Roma con Gabrielli. Bisognava prendere le giuste conseguenze in tempo per votare prima. Sì, perché il timore politico, pare ci sia stata una telefonata di fuoco, così almeno dice Repubblica, tra Renzi e Orfini, che ha sempre difeso Marino. Il timore è che se il PD molla Roma, vince il Movimento 5 Stelle. Questo è il partito che viene accreditato come il partito in questo momento che potrebbe approfittare. No? Ma non mi sembra un buon motivo per negare poi i motivi per cui bisognerebbe votare. Per un decimo dei motivi per cui a Roma il PD non vuole votare altrove, farebbe votare e chiederebbe di votare, come è evidente. Sai cosa avrebbe detto Renzi al telefono a Orfini? Gli avrebbe detto questo: io volevo cambiare Marino, tu l'hai difeso e adesso tu muori con lui. Beh, questo parlando mi sembra eccessivo. Detto questo, Orfini si è trovato una terra di nessuno, perché il problema è che da commissario, credendo di interpretare la linea del partito, è noto che Renzi la linea del partito è la linea personale sua, quindi se cambia idea è cambiata la linea del partito. Il problema è questo. In ogni caso, 800 24 00 24 se volete chiamarci su questo, insomma, Marino si deve dimettere per gli scontrini, perché dire restituisco i soldi è una ammissione di colpa. Poi c'era le pandine, la pandina rossa, poi c'era una vicenda del 2002 che tirò fuori il foglio, per cui Marino dovette lasciare l'università americana per la reiterazione, per rimborsi, almeno dall'università americana disse, chiese rimborsi due volte, quindi sarà mica che è genovese. No, adesso non facciamo il razzismo antropologico. No, ma guarda che è una battuta che circola in Senato e alla Camera. Dice, ma è tirchio, è genovese. Cari genovesi, ribellatevi. A proposito di Genova, un'altra giunta completamente paralizzata, di cui non si parla nei giornali nazionali, però anche su quella il PD non sa dove mettere letteralmente le mani nella testa. Ha perso quattro consigli comunali, non sono più il PD tra quelli eletti, quindi un altro bel problema. Cioè, il PD non è sto rose e fiori che noi ripetiamo come a Bocconi andando dietro il regista di Palazzo Chigi, che a voi piace molto. Non sto parlando di Renzi, sto parlando del suo orchestratore dell'informazione. Vogliamo dare anche un nome e un cognome a questo orchestratore dell'informazione? Portavoce? Come si chiama? Not my fucking problem, come dite voi. No, quello è l'account su Twitter. Stai parlando di Filippo Sensi? Sì, perché noi diciamo, Sensi. Noi diciamo che è molto bravo, che è il portavoce di Matteo Renzi, che gli vanno dietro come i topolini, meno. La colpa è nostra, mica sua. L'accusa alla categoria da parte di Oscar Giannino. Scusa, la categoria, sì. Cioè, stai dicendo che passano le veline renziane sui giornali? Sto dicendo che quello fanno il loro mestiere e provare a darle. Il nostro non dovrebbe essere quello di riprodurle. Questo è quello che mi limito a dire. Perché ci sono innumerevoli esempi di numeri manipolati, temi che non ci sono, altri che non ci dovrebbero essere, che poi appaiono. Tante cose di questo genere. Va bene, si chiama Spin Doctor in americano. Per esempio, voglio dire, l'approvazione del disegno di legge concorrenza presentato dal governo come la grande svolta liberalizzatrice, che ieri esce al Parlamento fatto a pezzi. Sono pochissimi i giornali che gli danno il giusto rilievo, chissà come mai, perché sennò dovremmo ammettere che poi è il governo che non le difende, i temi che annuncia, bel regalino alle poste che sia, bel regalino ai farmacisti, beh, pieno di bei regalini, doveva essere il contrario, come vedi... Prima avevamo Carlo Rienzi del Codacons che combatte così a dire i farmacisti, le lobby, no? Visto che non ci sono i farmaci, sono temi importanti. Come temi che riguardano quanti milioni di italiani, prima dicevamo 3 milioni e mezzo di italiani che attendono il rinnovo del contratto, che forse guardano un po' stupiti a questa rottura mediatica, sia oltre che rottura proprio delle contrattazioni tra Confindustria e sindacati, mediatica, perché oggi ci sono due interviste, una a Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria al Messaggero, e una di Susanna Camusso su Repubblica, che se le danno un po' di santa ragione, no? Accusando l'uno l'altro di rubare la palla, per così di rubare la palla o di avere la colpa sportiva, di avere fatto saltare le trattative. E intanto gli italiani attendono, i lavoratori, caro Oscar. Ma qui c'è un punto di fondo. È chiaro che non si può chiedere indietro i soldi ai lavoratori, perché col vecchio meccanismo di indicizzazione dell'inflazione hanno beccato più soldi dell'inflazione, con quello che è successo tra disoccupazione, insomma, i redditi disponibili delle famiglie italiane sono scese rispetto a 15 anni fa quasi del 20%. Non glieli si può chiedere, giusto chiedergli di cambiare integralmente il meccanismo per dire i soldi li diamo contrattando sulla produttività, però diciamoci la verità, sta Confindustria si è svegliata tardi. Questa trattativa andava impostata diversamente, meglio un anno fa. Lo dico io che difendo il salario di produttività, ma mi trovo in imbarazzo a dover difendere una posizione che aveva la pretesa al 7 settembre di dire ci vediamo e chiudiamo in un'ora. Sì. Mica è Marchion che chiude in 17 ore il contratto con gli americani, e anche a Marchione è andata storta. È poi che il tempo fugge, perché insomma a dicembre quindi poi io temo che alla fine diventi un pasticcio, e ci potrebbe essere l'intervento del governo, sul quale Susanna Camusso dice ma non si capisce perché è una contrattazione tra le parti, debba intervenire il governo, però quando le parti hanno la testa sulla luna non so cosa dirti, ecco, questo. Allora volete intervenire anche su questo? Tra l'altro noi, Oscar, ci concentreremo invece sulle unioni civili, perché avremo ospite la senatrice Cirinna, ecco, lei che viene un po' bersagliata dai cattolici, diciamolo chiaramente, perché ecco lei che è la relatrice del testo sulle unioni civili, cioè volere introdurre le unioni tra persone dello stesso sesso, riconoscerle, cosa che c'è in gran parte del mondo, ma qui in Italia è ancora un dibattito che è fervente. Se volete parleremo anche dell'attualità internazionale, perché Putin, hai visto che ha festeggiato il 63esimo compleanno con una bella partita hockey e qualche missile sulla Siria. Direi, il mio consiglio, la stampa, Anna Zafesova, ottimo articolo. Io sono un grande fan di Anna Zafesova, ma perché un ottimo articolo? Perché in realtà Putin si sta prendendo nell'inedia, nell'incertezza, negli errori dell'America e dell'Occidente, tutti quanti, ci mettiamoci anche noi, si sta prendendo in pochi giorni un ruolo centrale. Questo ruolo centrale è il ponte tra gli sciiti e i sunniti, che naturalmente devono essere contro lui spara i missili dal Mar Caspio, e c'ha gli aerei, fa quello che diavolo lo vuole, non risponde a nessuno, però la realtà è che parla del nostro disastro. Lo so, perché tu dici ieri, da ieri colma un vuoto che è il vuoto nostro, sì, dell'Occidente, che non sa cosa fare, che guarda la Siria da anni senza sapere da che parte stare. Stiamo con Assad, che consideriamo un dittatore, o stiamo con quelli contro Assad e poi, che vuol dire? Ti faccio un esempio. E intanto Putin interviene e dice, esatto, io sto con Assad, io sto con linea chiara, bombardo. E in questa linea chiara significa che non mi romperete più le scatole sull'Ucraina, la Crimea resterà mia, il Donbass. C'è la forza però di una coerenza di fronte a un enorme problema. Quello che voglio dire io è: noi siamo l'esangue riproduzione di quello che scrive oggi Sergio Romano sul Corriere nella sua rubrica delle lettere, che spiega a un lettore a proposito del ma perché l'Italia paga per Vanessa e Greta e non lo ammette. Sergio Romano, che in questo è uno spietato cinico, dice: ma questa è l'Italia, noi così facciamo, che cosa, che ha lei da ridire su questa pratica? Questa pratica ci rende incapaci di fare scelte nette, quando diciamo di farle incapaci di sostenerle, e così via. Come nel caso del bombardamento. Adesso abbiamo detto bombarderemo, in realtà Renzi vorrebbe non passare dal voto parlamentare, perché come ci spiegava ieri il senatore Latorre c'è una mozione di un anno fa che ci impegna e potrebbe essere estesa al bombardamento, quindi non vuole passare attraverso un voto al Parlamento e vuole entro un mese cercare di convincere. Ma ti rendi conto che contemporaneamente andare sui giornali, ragazzi. Perché poi questa cosa è stata detta, questi quattro tornado, le bombe non ci sono per armarli, per dirtene una, ecco. Quindi è come al solito una italianata. Per far volare un aereo con un'arma tra un mese, un italiano. Io devo dire la verità, io credo che quando l'Italia smette di fare queste cose è meglio. Italiani, ribellatevi a Oscar Giannino. No. Oscar Giannino no. Sta sparlando dell'Italia. È proprio una cosa ridicola. Lo faccio anch'io a volte. Allora, caro Oscar, prima di ci sono due ascoltatori, c'è Mario da Roma, vogliamo sentirlo? Mario da Roma, forse è Marino, non Marino, non lo so. Mario è il suo sindaco. Sì, è il mio sindaco. Ha votato? No, ballottaggio non ho votato, e devo dire che alla fine Marino è un altro degli effetti di Alemanno, anche se a Roma poi abbiamo un po' rivalutato Alemanno, ma più che per meriti di Marino. Che peraltro io vorrei da una parte ringraziare il sindaco, che grazie a lui abbiamo messo una parola fine su sto mito della società civile in politica. Lui, diciamo, è l'ennesima dimostrazione di un disastro, però dall'altra bisogna pure dire che adesso non è che tutti i problemi di Roma fanno sono di Marino. Negli anni 70 Roma già era in default, cioè gli ultimi sindaci prima ancora di Alemanno hanno fatto un sacco di debiti, Alemanno ha messi altri, questo non sa che pesci prende. Quindi dice non butterebbe tutta la croce su Marino. No, io non è, cioè, dico, Marino mi sembra unfit, come si dice, da tutti i punti di vista, mi sembra che anche da... Ma è meglio votare o no? Senza voler fare la sintesi della storia di Roma. Io invece l'ultima cosa che volevo dire è proprio questo, ma non si può commissariare Roma anche per qualche generazione, cioè, perché alla fine magari dalla Bavarese a caso, non lo so. Ma lei, che Roma è basta che non mi dica di tornare all'amministrazione papalina, perché era persino peggio di questa. Quindi... Ma guardi, questo io non lo so, però qualcosa bisogna fare. Ma la sensazione, caro Oscar, che Mario dice le abbiamo provate tutte, forse meglio, certo, meglio anche quella. Inventiamo se qualcosa straordinario. Comunque, per votare bisogna poi sfiduciare un sindaco, quindi ci vogliono, voglio dire, dei voti politici in consiglio di qualcuno che lo sfiducia. Scusami, aspetta un secondo, nel nostro ordinamento ci sono ben descritte delle condizioni che consentono ai governi, come avviene, di commissariare e di andare al voto. C'erano tutte queste cose a Roma. Ma c'è stato un prefetto che ha deciso il Viminale, che non c'era lo scioglimento per mafia. No, Renzi si è inventato, e i suoi consiglieri si sono inventati una procedura che non ha riscontro nel nostro diritto amministrativo. Io a mia trasmissione ho fatto vedere costituzionalisti che dicono: siamo convinti che sia incostituzionale, perché il commissariamento o non commissariamento senza scioglimento, ma con un prefetto che ha poteri su poteri di ordinaria gestione, non esiste nel nostro ordinamento. Questo è quello che Renzi ha fatto. Fatto pur di non andare a votare, ecco, ricordiamo. Sentiamo Salvatore da Venezia anche. Salvatore, buongiorno. Buongiorno Milano, buongiorno Oscar. Eccoci. Niente, io sempre volevo fare un appunto proprio sul discorso Marino. Vabbè, magari non c'entrerà niente, sarà una brava persona riguardo a Mafia Capitale, però il discorso che vuole restituire i 20.000 euro o una parte di quello che ha speso. Ma allora questa è un'ammissione di colpa, perché se io vengo a... No, ma lei se lo chiede o lo afferma? No, io lo affermo. Ah, lei lo afferma. Io lo affermo, per me è un'ammissione di colpa. È un po' come dire, così chiudiamo la vicenda, è come le multe pagate della panda rossa, cioè lui dice io avevo ragione, mi hanno tolto il pass, ma per chiudere la questione pago, così faccio vedere che sono più... Però io mi schiero con l'ascoltatore, più... non si può ogni volta dice no, va bene, è così come dite voi. Se è così come dite ma voi... No, ma voglio dire, ma anche perché se un ambasciatore del Vietnam dice io a cena con Marino non c'ero, non lo so, o dobbiamo credere che c'è il complotto dell'ambasciatore del Vietnam che è interessato a dire una roba falsa, oppure non lo so, c'è qualcosa che non va. Salvatore, comunque la ringraziamo, dobbiamo andare in pubblicità, ma prima, caro Oscar, dobbiamo assegnare i nostri Oscar. Esattamente. Perché io ne ho uno che voglio dare. And the Oscar goes to... Polemicamente a coloro che hanno ordinato dei treni mandati in Sardegna, pagati 50 milioni di euro, li abbiamo fatti arrivare dalla Spagna, e quando sono arrivati abbiamo accorto che la rete ferroviaria sarda non può sopportare questi treni e quindi dovremo spendere altri 49 milioni di euro per ammodernarli. Capito? Succede in Italia, succede in Sardegna. Tra l'altro, lo racconta Libero. Tra l'altro, se sai, trasporti è un mio amico, devo chiedere. Della Sardegna? Roba, sì, dobbiamo, se volete, lo convochiamo. Porca miseria! Si chiama Massimo Deiana. Ma lui magari non c'entra, non no, lo so. Magari sarà. Magari. Infatti, per questo lo dico, mi sembra strano, però il mio invece, migliore editoriale della giornata, non c'è dubbio, Alberto Mingardi sulla Stampa, che bastona la retromarcia su appunto la legge concorrenza e individua tutti coloro che invece hanno avuto un bel regalo, non i cittadini che speravano la concorrenza, bensì i notai, i farmacisti, i soliti da questo punto di vista. Segnalo anche però che un Oscar lo merita per la serie Nascondere le cose importanti, in Repubblica oggi, che da una parte è uno scoop, perché dice in legge di stabilità si... Preparati Alessandro, si alza il tetto per uso dell'equità, non si abbassa, torna a 3.000 euro, spiace per voi giustizialisti, però naturalmente viene messa questa roba nelle pagine economiche così piccolina, piccina. Avete capito, cari ascoltatori di Radio 24, è in corso la battaglia con un governo di sinistra per tornare ad avere più liquidi, pensate se fosse stato Berlusconi. Va bene, noi dopo... Ti vedo, No, ma chi mi vedi? No, mi vedo che però, vedo il chiamo clock. Anche l'Oscar, scusate, a Rizzoli quelli della sera, quel tre Oscar delegato di Oscar se ne va perché ha perso la R avendo venduto la Rizzoli . E quindi Scotti Ovane oggi se ne va a casa con una compagine editoriale ancora, dopo anni e anni di svendite, cacciate dei giornalisti eccetera, lo dico con dolore, che è il segno del disastro del capitalismo italiano. Allora, dopo la pubblicità parleremo di unione civile, avremo la senatrice Cirinna, ma anche il vostro contributo all'800 24 00 24. Allora, 8:39 minuti, siamo qui Alessandro Milan, Oscar Giannino, attenti a noi due. Tra l'altro, Oscar, non abbiamo ancora messo la mail, ma la metteremo forse da oggi. Attenti a noi due, @radio24.it. Però non mandatecele adesso perché mi sa che non arrivano. Siamo un po'... Dobbiamo dirlo solo quando è ufficialmente aperta. Ecco. Ho fatto una cazzata. No, hai detto che ho fatto una cazzata e va bene. No. Allora, va bene, la mail sarà... No, perché se la mandano ed è chiusa, gli torna indietro. Deludono, certo, capisci? Ne hanno ragione loro. Allora, per ora scriveteci a 24 mattino, @radio24.it, quella c'è, e poi dopo si vedrà. Romualdo da Monza e Brianza. Ma tutti da Monza e Brianza? Ma che provincia è? Io sono di Sesto San Giovanni, Monza e Brianza. Rivalità, buongiorno. Vecchi campanili, Oscar, lascia stare. Romualdo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Oscar, buongiorno Milan. Niente, guardi, l'ennesima chiamata a Radio 24, ovviamente, altro che mani sul volante. Io adesso sto percorrendo l'autostrada, la Milano-Genova, perché sto andando a fare delle cose che purtroppo... ci fa piacere, caro Romualdo, e che ci vuole dire? Se dice purtroppo, allora, non credo molto felice. Vabbè, certo, che ci vuole allora, dire? Guardi, io voglio dire questo, il fatto che oramai l'indignazione più totale l'abbiamo raggiunta tutti, no? Come contribuenti siamo quelli che siamo messi con le spalle al muro. Sì. E oramai siamo impotenti. Ma non dica così, che Milan ti fa per lo Stato? No, io non tifo, io tifo per il Milan, guarda, è per l'anno sesto. No, ma stavo dicendo, dopo tutte le indignazioni che c'è nel nostro paese, dopo tutti gli scandali della politica. Dopo tutte queste ruberie, sì? Questa disonestà della politica. E arriviamo al dunque. Qualcuno può prendere in mano questa situazione ed essere capace di fare l'arbitro. Siamo sempre alla ricerca dell'uomo forte, caro Romualdo. L'uomo forte che ci governi col bastone. C'è un signore a Roma che ha una risposta per lei, comunque. Non è Marino, sta a Palazzo Chigi, ma le posso garantire che è convinto che ora e per moltissimi anni. Ma perché, Oscar, cerchiamo sempre quell'uomo salvifico? Il Berlusconi per 20 anni, adesso qualcuno il Renzi per 20 anni. Cioè, siamo così. Abbiamo avuto una politica ordinaria, diciamo, di buon livello, ecco. E non l'abbiamo avuta per lunghissimi tratti della storia non troppo lunga dell'Unità d'Italia, non l'abbiamo avuto nei secoli precedenti, quindi è una storia lunga. È una storia lunga. Intanto una storia che forse si accorcia o si allunga, non lo so, forse arriverà a una fine, è quella sulla questione delle unioni civili. Vogliamo salutare la senatrice Cirinnà. Buongiorno senatrice, Partito Democratico, Monica Cirinnà, benvenuta. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Tanto ci deve spiegare perché sulle unioni civili avete presentato un altro testo, la cui prima firmataria è sempre lei. E perché? Sono sempre io, il testo è sempre quello, i diritti che daremo alle coppie di persone dello stesso sesso sono tutti compresi. E allora? È chiaro da sempre che noi stiamo facendo unioni civili, non stiamo aprendo al matrimonio egualitario, quindi tutto quello che leggo sui giornali in questi giorni mi stupisce. E che bisogno c'era, scusa, che bisogno c'era di un altro testo allora, se è tutto uguale? No, il bisogno è quello che è dettato dal nostro regolamento del Senato, che è un regolamento piuttosto antiquato, per usare un termine gentile, che non consente diciamo operazioni di accorpamento nel voto degli emendamenti quando si è in commissione, quello che normalmente viene chiamato il canguro. Il canguro si fa solo in aula e quindi travolti da una serie di emendamenti enorme, oltre 4.500, che vanno discussi uno per uno, sì, che possono essere illustrati per 10 minuti uno per uno. Quindi lei ci sta. Se abbiamo capito, se fosse così, è un nuovo testo che serve ad aggirare lo ostruzionismo. Però significherebbe che in realtà è come una specie di algoritmo Calderoli, non cambia la sostanza, voglio dire. Mentre invece l'opposizione e pezzi della maggioranza dicono no, la cambia, come, tanto è vero che non lo voteremo mai. Anzi, possiamo sentire allora, direttamente. Aspetta, le facciamo sentire l'osservazione di Lupi, per così dire, così le risponde direttamente lei subito dopo. Poi, senatrice Cirinnà. Se il PD pensa di fare una battaglia sulle unioni civili, magari per placare quella minoranza del Partito Democratico che ha dovuto votare per il cambiamento e le riforme costituzionali, fa un errore gravissimo. Cioè, ce l'avete in casa il problema, nel governo, l'ex ministro Lupi è nuovo centrodestra, senatrice Cirinnà. Al ministro Lupi rispondo due cose. Punto uno, stiamo lavorando per dare diritti a persone, coppie e famiglie che non esistono per il nostro diritto. Se lui crede che sia una questione di accontentare la minoranza interna, non ha capito niente. Secondo punto, lui è un partito di governo e non si possono permettere di paralizzare una commissione. Loro parlano di dialogo e possibilità di raggiungere un accordo. Il testo base che io ho dovuto trasformare in DDL è fermo in commissione da marzo di quest'anno. In oltre 6 mesi chi voleva dialogare ha dialogato. Sì. Loro hanno fatto solo emendamenti ostruzionisti. Aspetti, allora. Siamo andati in aula senza relatore su una marea di leggi. E questo è un fatto. E nessuno può dire, nessuno può contestarle di non voler aver voluto accelerare. Lei, altre persone del PD, Scalfarotto e così via. Questo è un fatto. Scusi, un secondo. No, però vi ringrazio per la superstima, ma in realtà una piccola parlamentare come me non si muove senza. Ma non c'è dubbio. Ma non c'è dubbio. Sto dicendo, il PD è Renzi hanno accelerato adesso. Altra voce è quella parlamentare che viene e dice sì, adesso con la giustificazione che è quella che lei ci ha appena illustrato tecnica, c'è un altro testo e l'NCD insorge, però dateci retta, è una parte ognuno di fronte al proprio elettorato, dopodiché si andrà per farlo passare, risolvere il problema, l'ennesima rimediazione al ribasso. Lei che ci dice su questo testo? Lei e PD non arretrano di un millimetro, costi quello che costi, oppure invece questa voce che viene dall'interno del Parlamento ha un fondamento e state recitando ciascuno di fronte al proprio mondo di riferimento una parte? Guardi, io sono 2 anni che dico la stessa cosa, dico che a queste coppie bisogna dare tutti i diritti sociali, bisogna riconoscere l'estensione della responsabilità genitoriale e bisogna riconoscergli i diritti fiscali e previdenziali, tra cui la reversibilità della pensione. Se questa cosa si fa con un emendamento giallo, verde o rosso, io non ho un problema. Il problema sono i contenuti che nel testo base c'erano e nel nuovo DDL sono stati riportati. Poiché il DDL porta il mio nome, io so che non posso andare sotto a questi punti fondanti. Sì. Dopodiché si può cancellare la firma, ma io non credo che questo accada, perché le ripeto, nel momento in cui tu stai e devi rispondere alla tua Corte Costituzionale, alle sentenze europee, e devi far uscire l'Italia dal Medioevo, perché siamo rimasti solo noi, la Grecia e l'Albania, a non dare diritti alle coppie di persone dello stesso sesso. Lei non arretra. Ormai siamo arrivati all'8. Però ci ha detto, senatrice, quando dice al limite si ritira la firma, vuol dire che lei sarebbe anche addirittura disposta, se ci fosse un compromesso al ribasso, a ritirare la firma da questo provvedimento. Se ci sono compromessi al ribasso, la legge decade. È chiaro. Se ci sono compromessi a ribasso, è meglio non fare la legge, che è quello che è da 20 anni di cui si parla, e poi non se ne fa niente. Vabbè. Ma c'è un tentativo molto limpido per chi sa leggere le mosse della politica. C'è un tentativo che viene da centrodestra di dire: oddio, pioveranno rane dal cielo, oddio, l'Italia sarà minata dal punto di vista della sua costituzione antropologica, e questi sono i conservatori. C'è un tentativo di blocco da parte di una certa sinistra che, a furia di dire sminerete, depaupererete, ci saranno meno diritti, tenta di far saltare quell'accordo limpido e tuttora estremamente saldo tra il PD, CEL, il Movimento 5 sì. Stelle, il Misto e tutte le persone democratiche e progressiste che vogliono dare diritti a queste coppie. Senatrice Cirinna, lei da destra, intende rispondere al Cardinal Ruini, che domenica ha detto: se passa questa legge sulle unioni civili ci saranno proteste. Oggi sul Corriere si parla già di una nuova manifestazione da parte del mondo cattolico, ma non solo cattolico, contro questa legge. È giusto che ci siano manifestazioni, è giusto che chi non è d'accordo faccia sentire la sua voce. Quando in Francia le unioni civili vennero trasformate in matrimonio egualitario, ci fu una mega manifestazione che riempì le Champs-Élysées, ci fu addirittura una persona che si diede fuoco in una chiesa. Quindi siamo abituati, davanti ai grandi cambiamenti sociali, ad avere proteste e manifestazioni a favore e contro, attenzione, perché non è che è chiaro. Contro. Qui c'è la questione anche della reversibilità, Oscar, due calcoli si possono fare sulla reversibilità della pensione, tra persone dello stesso sesso, questo. Perché ci sono i conti dello Stato, insomma, devono anche essere tenuti. Sono conti in deficit, quelli previdenziali, però io su questo in 5 secondi non ce la faccio una battuta, quindi temo che sia... Allora, il problema è l'importanza... Aiuto. No, mi scusi. Posso dire che della legge c'è un articolo di copertura... No, mi scusi... E 3 volte è la 4ª che la dico, però alzo il tono. Cioè, no, mi scusi, io stavo spiegando che il tema dipende dal rilievo che tu dai a questa la formula semantica usata per le civili in legge. Non vorrei neanche citarla per quanto è brutta. Il problema è: sì, dai un significato pregnante. È giusto ed è logico che ne discendano conseguenze di questo certo. tipo. Ecco, quindi la questione è tutta lì, è sempre nella sostanza della scelta che si fa. Non ho capito niente. E mi dispiace per lei, allora, l'italiano. Ho parlato la lingua italiana, quella di cui stava intervenendo. Lei su che questione stava intervenendo? Sulla reversibilità non ho capito qual è la questione. Che non ci sono i soldi, che non va riconosciuta. No, io ho detto che invece di fare una battutina sulla reversibilità, senatrice, la reversibilità è qualcosa che deriva dall'importanza che dà il riconoscimento dell'unione civile. Ho superato l'esame? Certo. Ah, ecco, grazie, grazie. E infatti non ho capito perché ci sta facendo perdere tempo continuando a fare obiezioni. Mia pazienza, io ho spiegato la legge e ho detto cosa c'è dentro, non sto perdendo tempo, forse siete voi che me lo state facendo perdere a me. Può essere, in questo caso voglio salutarci. Non è così. Grazie senatrice. Cirinna, vogliamo andare a Eleonora da Torino, buongiorno Eleonora. Buongiorno. Dica. Allora, volevo dire la mia, e la mia è semplice, io sono totalmente contraria a questa proposta di legge. Perché è medievale e discriminatoria, perché l'uguaglianza sta nel matrimonio egualitario. Questa costruzione del giardinetto per pochi, brutti e cattivi, mi fa orrore. Allora, se siamo tutti cattivi, uguali, beh, insomma, in qualche modo, voglio dire, se a lei dicessero, guardi, siccome lei ha i capelli neri, allora sì, va bene, però magari, non so, dovrebbe guadagnare la metà degli altri perché hai i capelli neri. Eh no, non va bene. Allora, se siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti. Se no, no. E beh, qui, ma guardi, si tratta per chi è a favore di questa legge di estendere i diritti a chi i diritti non ne ha, solo perché è una coppia dello stesso sesso. Quindi però allora dice, è ribaltabile. Se io il discorso. Ho una preferenza diversa, ma voglio stabilire un rapporto solido nella vita, perché deve essere diverso dal matrimonio? Questa è l'obiezione. Sono le obiezioni che fondamento. Si fanno su questa legge. Vogliamo sentire anche Lorenzo da Roma? Buongiorno, scusate, Perché? Io sono un povero primario di chirurgia, io rimango basito di fronte a certe affermazioni che sono state fatte in passato riguardo alla possibilità di una persona o un parente o non un parente di accedere ai dati riservati a livello sanitario. Allora, il problema di perché una delle questioni sollevate è stata questa, poi c'è anche quella della pensione, va bene, sì. Dipende se è contributiva o retributiva, perché se io pago i miei contributi personali, io poi vado dal primo notaio che trovo e lascio i miei soldi a chi diavolo voglio, restituibilità o non restituibilità, questo è. Poi questo è un altro problema. Ma per quanto riguarda l'ospedale, nessuno fa una discriminazione, stesso, non stesso, quello che sia, non gliene frega niente a nessuno. Voglio precisare, se tutti i presenti con qualunque carta che ti qualifica atto a poter dare un'occhiata alla cartella clinica del paziente, sia un parente o non un parente, ti viene dato l'accesso. Chiaro che se io sono una coppia omosessuale e il mio compagno non è stato gratificato da parte mia di un'attenzione per cui mi fido di lui, per cui glielo scrivo, ma insomma mi sembra veramente una cosa fuori del mondo. Va bene. Che gli ospedali non fanno questa cosa, Lorenzo, o non però permettono. No, però abbiamo capito, però si deve fermare Lorenzo, perché sennò qui sforiamo, e caro Oscar, se sforiamo di mezzo secondo ci sfumano. Tu vuoi essere sfumato? Io non voglio essere sfumato. E allora ci troviamo domani alle 6:30 con 24 mattino e poi domani con te alle 8:15. Va bene, ciao, grazie.